su Rigonia. After your stomach has got used to it, then we can make the trip to Barranquilla by land. I do not want to see you step foot in the airport in Bogota. You understand? We do not want any risks here. That is why I'm boarding you in Barranquilla. There, you will begin your fast before you swallow the 130 bags. Any less? It's not worth the trip to New York. Don't screw around, Gustavo. Each one must swallow 130. Do it. Thank you. Raz is all screwed up as his fucking two-day fasting. I don't see what good it does. For two reasons, my friend. One, because that way you can take more into your stomach. I have seen people take 150 bags. That is $3,000 American. More money than you've ever seen. And the other reason is to ensure the purity of the odor of the product. This is high-class merchandise meant for export to the sensitive North Americano noses, see? And now, my friend, por favor, swallow it again. Ragazzi, qui si smonta tutto. Il film non si fa più. In due giorni qua non ci deve essere più niente. Bisogna cominciare subito. Coraggio, al lavoro. Buttate giù. Dico bene, dottore? Sì, grazie. Arrivederci, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo film. Lo speriamo. Ciao, marinai. Lei ha fatto benissimo. Mi creda, oggi è una buona giornata per lei. Sono delle decisioni che costano, lo so, ma noi intellettuali, dico noi perché la considero tale, abbiamo il dovere di rimanere lucidi fino alla fine. Ci sono già troppe cose superflue al mondo, non è il caso di aggiungere altro disordine al disordine. In fondo, perdere dei soldi fa parte del mestiere di produttore. I miei rallegramenti, non c'era altro da fare. E lui ha ciò che si merita, per essersi imbarcato con tanta leggerezza in un'avventura così poco seria. No, mi creda, non abbia né nostalgia né rimorsi. Distruggere è meglio che creare quando non si creano le poche cose necessarie. E poi, c'è qualcosa di così chiaro e giusto al mondo che abbia il diritto di vivere. Un film sbagliato per lui non è che un fatto economico, ma per lei, al punto in cui è arrivato, poteva essere la fine. Meglio lasciare andare giù tutto e far spargere sale, come facevano gli antichi per purificare i campi di battaglia. In fondo avremmo solo bisogno di un po' di igiene, di pulizia, di disinfettante. Siamo soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio. Ricorda l'elogio di Mallarmé alla pagina bianca? Aspetta, e di Rimbaud, Guido, aspetta. Un poeta, mio caro, non un regista cinematografico. Lo sa. Siamo di pronti per cominciare. Poesia, buongiorno, signore. La sua rinuncia a continuare a scrivere, la sua partenza per tutte la... le mie felicitazioni. Se non si può avere il tutto, il nulla è la vera perfezione. Mi perdoni questo eccesso di citazioni, ma noi critici facciamo quello che possiamo. La nostra vera missione è spazzare via le migliaia di aborti che ogni giorno oscenamente tentano di venire al mondo. E lei vorrebbe addirittura lasciare dietro di sé un intero film, come lo sciancato si lascia dietro la sua impronta deforme. Che mostruosa presunzione credere che gli altri si gioverebbero dello squallido catalogo dei suoi errori. E a lei che cosa importa cucire insieme i brandelli della sua vita, i suoi vaghi ricordi, o i volti delle persone che non ha saputo amare mai? I'm still waking up from this shit. While I was down, I witnessed everything in stunning black and white. I lost sight and made excuses for all the damage that I did. Singing, I don't. While I was dreaming. How does it feel? How does what feel? To be somebody everybody knows. Feels good to have your work recognized, yeah. I read your book. I liked it very, very much. Thank you. I really do appreciate that. I have to go. My wife. I know. Artists always feel uncomfortable. Oh, no, no, talking no, no. about their work. No, no, and no. I wonder, is there just one thing you'd do for me? Sure. I wondered if you'd autograph my copy of your book. Of course. I do have a story. Very good story. Now, I know you get this line all the time, but I think you'll like the story. If I was to tell you the story and you wrote it, well, then maybe you could give me a little credit. Well, that wouldn't be fair, would it? Have a good day. It's about a man who wrote a book and then lost it, and the pissant kid who found it. You still here? It's all very well to laugh at the military, but when one considers the meaning of life, it is a struggle between alternative viewpoints of life itself. And without the ability to defend one's own viewpoint against other, perhaps more aggressive ideologies, then reasonableness and moderation could quite simply disappear. That is why we'll always need an army. And may God strike me down were it to be otherwise. Stand there, Corbin! Like you've never seen the hand of God before! Now, today we're going to do marching up and down the square! That is, unless any of you got anything better to do. Well, anyone got anything they'd rather be doing than marching up and down the square? Yes, Atkinson. What would you rather be doing, Atkinson? Well, to be quite honest, Sarge, I'd rather be at home with the wife and kids. Would you now? Yes, Sarge. Right, off you go. Now, everybody else happy with my little plan of marching up and down the square a bit? Sarge? Yes? I've got a book I'd quite like to read. Right, you go read your book then, now. Everybody else quite content to join in with my little scheme of marching up and down the square? Sarge? Yes, Wycliffe, what is it? Well, I'm learning the piano. Learning the piano? Yes, Sarge. And I suppose you want to go and practice, eh? Marching up and down the square, not good enough for you, eh? Well, right, off you go! Oh. Now, what about the rest of you? Rather be at the pictures, I suppose. Right. All right, off you go! Bloody army, I don't know what it's coming to. Right, Sergeant Major marching up and down the square. Left, right, left. To my flaws, hanging vines. Quando mi chiedono perché ho lasciato il 2046, resto nel vago. Non do mai la stessa risposta. Un tempo, quando uno aveva un segreto da nascondere, andava in un bosco. Faceva un buco in un tronco e sussurrava lì il suo segreto. Poi richiudeva il buco con del fango. Così il segreto sarebbe rimasto sigillato per l'eternità. Ho amato una donna, ma lei mi ha lasciato. Speravo fosse nel 2046 e quindi sono andato a cercarla lì. Ma non c'era. Da allora non riesco a smettere di chiedermi se mi abbia mai amato. La risposta è un segreto che nessuno conoscerà mai. I ricordi sono sempre bagnati di lacrime. Rigonia. No, stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a te girava il mondo come sempre, gira il mondo, gira lo spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi, Claudia... E tu? Saresti capace? No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto, non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo come dissanguato. E così finisce il film. No, comincia così. Poi incontra la ragazza della fonte. È una di quelle ragazze che danno l'acqua per guarire. È bellissima. Giovane e antica. Bambina e già donna. Autentica, solare. Non c'è dubbio che sia lei la sua salvezza. Spegni i fari. E poi? Della storia che mi hai raccontato non ho capito quasi niente. Ma scusa, un tipo così, come tu l'hai descritto, che non vuol bene a nessuno, non fa mica tanta pena, sai? In fondo è colpa sua. Che cosa pretende dagli altri? Perché credi che io non lo sappia? Come sei noiosina, anche tu. Ah, ma non ti si può dire proprio niente. Quanto sei buffo con quel cappellaccio truccato da vecchio. Io non capisco. Incontro una ragazza che lo può far rinascere, che gli ridà vita. E lui la rifiuta. Perché non ci crede più. Perché non sa voler bene. Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo. Perché non sa voler bene. E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiarda. Perché non sa voler bene. Maybe sorgente del fiume Giordano in terra di Israele, quali sono? Hasbanidan e Banias. Mi dispiace, caro signore, ma lei ha sbagliato, perché gli affluenti del Giordano in Israele sono quattro. Lei ha dimenticato il fiume Yarmouk. Guardi che si confonde, dottor Talarico. Il fiume Yarmouk non entra più in Israele. Ma come non entra in Israele? Ma abbia pazienza. Adesso le faccio vedere la carta geografica. Con piacere, dottor. Venga un momento a ma controllare con me, per favore. Che bisogno c'è? Eccolo qua, il fiume Yarmouk. Scusi, dottor Nanniloi, di che anno è la carta? La carta è del 1960. Ecco che vi dicevo, è superata, perché nel 1961 il governo della Giordania ha deviato il corso dello Yarmouk, alimentando il sistema idrico del Coro Orientale, contravvenendo ai patti che i tre stati arabi avevano già accettato nel 1955. Tu dici che gli fai una domanda difficile, poi siamo proprio noi che ci caschiamo sopra. Basta telefonare all'Istituto Geografico. L'Istituto Geografico, per favore, presto. Voglio proprio vedere se siamo diventati tutti degli imbecilli. Non esiste più. Rigo-ni-a. See the woman in the window? Do you see the woman in the window? Yeah. You see the woman? Where? I want you to see that woman because that's my wife. But that's not my apartment. It's not my apartment. You know who lives there? Huh? No, I mean, you wouldn't know who lives there. I'm just saying. But you know who lives there? Huh? A nigga lives there. They're like that. And I'm gonna kill her. Listen. There's nothing else. I'm gonna kill her. Now, what do you think of that? I said, what do you think of that? Don't answer. You don't have to answer everything. I'm gonna kill her. I'm gonna kill her with a 44 Magnum pistol. I have a 44 Magnum pistol. I'm gonna kill her with that gun. Did you ever see what a 44 Magnum pistol would do to a woman's face? I mean, it would fucking destroy it. Just blow her right apart. That's what it can do to her face. Now, did you ever see what it can do to a woman's pussy? And that you should see. That you should see what a 44 Magnum is going to do to a woman's pussy, you should see. What's that? I know you must think that I'm, you know, you must think I'm pretty sick or something. You know, you must think I'm pretty sick. Right? You must think I'm pretty sick? Hmm? Right? I bet you really think I'm sick, right? You think I'm sick? You think I'm sick? You don't have to answer. I'm paying for the ride, you don't have to answer. Che mi succederà se fallisco il tuo test? Eva... Una cosa brutta? Non lo so. Pensi che potrebbero spegnermi perché non funziono così bene come avrei dovuto? Eva, io non conosco la risposta alle tue domande. Non dipende da me. Perché deve dipendere? Tu hai qualcuno che ti testa e ti può spegnere quando vuole? No, non ce l'ho. E perché io sì? Ma non ti baseball! Tu non mi ascolti, sto cercando di spiegartelo nel modo migliore che io conosco! Non è facile per me ammettere che sono rimasto nello stesso posto per 18 anni. E io ci sono rimasta con te. Sono rimasta qui accanto a te, Troy. Ho una vita anch'io. Ho dato 18 anni della mia vita per restare nello stesso posto accanto a te. Non credi che anch'io volessi altro? Non credi che avessi sogni e speranze? È la mia vita allora, e io allora. Sono le 9:03. Cosa si fa? Non si lavora qui oggi? Comendatore, aspettiamo la busta paga. Perché? Il ragionier Stucchi non vi ha ancora pagato? Albera Lobbia. Carlone, parati! Comendatore, lei ci dice sempre che noi siamo una grande famiglia. Ma io ci dico che siamo una famiglia disgraziata. Perché lei ci arriva sempre con la fuoriserie. Ma noi da 2 settimane non prendiamo la paga. Prima di tutto non mi piace il tono. In secondo luogo metti giù quella chiave inglese perché non mi fai paura. Terzo, se non siete stati ancora pagati, la colpa non è mia, ma da ragioniere. Ragionier Stucchi! Bravo Alberto. We don't know who ordered it. We can't find McBrayer. So what do you want from me? I'm thinking maybe you could ask Sinan. Nation of Islam, talk to Alonzo Turner, see if any of them knows anything. I don't talk to people in here. I mostly read all day. How you doing on your merit badges? I'm coaching a beat baseball team. Who? It's baseball. For blind kids. Get the fuck out of here. No, for real. Shortstop! Left! Boys, it's sterling out there today. Who do we appreciate? Coach Montesanti! Coach Montesanti! You're a saint! You've been accused of practicing medicine without a license. It's a very grave charge, son. Are you aware that it's unlawful to practice medicine without a medical license? Yes, sir, I am. Are you aware that running a medical clinic without the proper licensing can place both you and the public in a great deal of danger? Is a home a clinic, sir? If you are admitting patients and treating them, physical location is irrelevant. Yes, sir. Will you define treatment for me? Yes, treatment would be defined as the care of a patient seeking medical attention. Have you been treating patients, Mr. Adams? Well, sir, I live with several people. They come and go as they please. I offer them whatever help I can. Mr. Adams, have you or have you not been treating patients at your ranch? Everyone who comes to the ranch is a patient, yes. And every person who comes to the ranch is also a doctor. I'm sorry. Every person who comes to the ranch is in need of some form of physical or mental help. their patients. But also every person who comes to the ranch is in charge of taking care of someone else, whether it's cooking for them, cleaning them, or even a simple task as listening. That makes them doctors. I use that term broadly, gentlemen, but is not a doctor someone who helps someone else? When did the term doctor get treated with such reverence as, oh, right this way, Dr. Smith, or, excuse me, Dr. Scholes, what wonderful foot pads, or, pardon me, Dr. Patterson, but your flatulence has no odor. At what point in history did a doctor become more than a trusted and learned friend who visited and treated the ill? Now, you ask me if I've been practicing medicine. Well, if this means opening your door to those in need, those in pain, caring for them, listening to them, applying a cold cloth until a fever breaks, if this is practicing medicine, if this is treating a patient, then I am guilty as charged, sir. Did you consider the ramifications of your actions? What if one of your patients had died? What's wrong with death, sir? What are we so mortally afraid of? Why can't we treat death with a certain amount of humanity and dignity and decency and, God forbid, maybe even humor? Death is not the enemy, gentlemen. If we're going to fight a disease, let's fight one of the most terrible diseases of all, indifference. Now, I've sat in your schools and heard people lecture on transference and professional distance. Transference is inevitable, sir. Every human being has an impact on another. Why don't we want that in a patient-doctor relationship? That's why I've listened to your teachings and I believe they're wrong. A doctor's mission should be not just to prevent death, but also to improve the quality of life. That's why you treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you win, no matter what the outcome. Per chi corre dietro ai propri sogni, l'Adventure Consultants offre qualcosa che è impossibile descrivere a parole. E perché non lo descriviamo sulla brochure? Perché l'esperienza è puro dolore. È semplice, ragazzi. Gli esseri umani non sono fatti per poter funzionare alla quota di crociera di un 747. Una volta arrivati qui, sopra il Colle Sud, il nostro corpo inizierà a morire, e intendo letteralmente. Non a caso si chiama la zona della morte, quindi la sfida è: riusciremo a portarvi in cima e poi al campo base, prima che il corpo muoia? How are you so sure that you're right? Disappearing figments of what's left. Show me if you can. I'll hold my breath till we're out of this. She looked the other way, keeping her distance from everyone, everywhere. Hug me in the bottom of this bed, dancing in the shadow of its dread. Julie, ehi! Che cosa vuoi da Julie? Darlene, lasciaci un secondo. Darlene, resta. Perché non frequenti Algebra 2? Ho cambiato sezione. Perché? Jenna e Kyle non ti bastano? Mi dispiace che tu sia gelosa. Jenna è una povera cretina. Non è affatto vero, frequenta Analisi 2. È cretina nel senso più ampio. Ma se non la conosci neanche. Miss Patty ti ha assegnato un ruolo, tra l'altro, e tu non ti sei fatta più vedere. Che ruolo? La tempesta. Julie, non esiste il ruolo della tempesta! È il ruolo che dà il titolo all'opera! No, è un ruolo inventato, così tutti possono partecipare! Certo, è ovvio, tu non fai niente se non sei il centro dell'attenzione, non è Beh, vero? Hai presente le tette di tua madre? Sono finte, totalmente ha finte! Ha preso una decisione sbagliata a 19 anni! Due decisioni sbagliate! Abbi fiducia in ciò che ami, continua a farlo e ti porterà ovunque tu voglia andare. Arrivederci su Rigonia.